questa landa desolata. Ti piacerebbe? Eh? Ascolta Radio Forte. Ascolta Radio Forte. Ascolta Radio Forte. Puntata numero 43, sigla. Temi che non vedi perché non sono più quelli che cerchi veramente. Si nutrono della paura della gente. Certo, certo, certo. La musica si difende. Radio Forte, 100 celle Avengers, che bello essere in diretta a due settimane precise dall'altra volta, quindi con una puntualità alla quale non siamo assolutamente abituati. In questo sabato 28 gennaio io saluto subito alla mia destra la console Betta. Buonasera, volevo informarvi che per la realizzazione di questa puntata alcune cetrate sono state maltrattate. Attenzione, saluto alla mia destra la Virginia. Niente, io sto a sinistra. Scusa, sei a sinistra e comunque non è là. E non sono è là. Virgi. Vabbè, ciao. E a seguire ho rovinato tutto la giornalista Capigrubri. Buonasera a tutte e a tutti. Mentre a cominciare la schiera degli studiosi veri, la professoressa Viola. Buonasera, bimbi belli. A continuare la schiera degli studiosi veri abbiamo il nostro Franci nelle retrovie. Ciao, ciao a tutti. Beautiful Mind. E quasi non lo direi chi altro c'è questa sera. Brum. Perché ecco. Già così niente, siamo. Già spoiler. Presentiamo l'intellettuale artista Guido. Buon pomeriggio parola. a tutti. Siete nonché, pronti a mutarlo? Autore di diversi contenuti qui a 100 celle Avengers, ma non affrettiamo i tempi, lo diremo. Marchette, presenteremo diremo, bene diremo, questo sì, intellettuale che chiamiamo comunque quando siamo in emergenza. Ci aiuterà a fare i conti con il nostro inconscio. È un po' il supereroe. No, dicevo, cioè, è un po' il supereroe. Guido, dicevo, è un po' il supereroe che ci viene a aiutare quando la Terra è in pericolo. Vabbè, salutiamo anche Iron Man, per favore. Ciao Iron Man. Sono circa 5-6 puntate che non lo salutiamo. Salutiamo Iron. Anche Alexa. Sì. Molto bella. Bene, ciao, il giro Alexa. Dei saluti ciao. È completo. E incredibile, non ho neanche detto che quest'oggi risata. Tutto questo brio ecco, sentite Alexa che si taglia già. Tutto questo brio appunto dovuto al fatto che la redazione ha un tema. Quando la redazione ha un tema, come si dice, scodinzola. Sono tutti, mamma mia, è un fermento tutta la settimana a parlare di questa cosa. E niente, qual è il tema questa volta? Lo vuole dire qualcun altro? Silenzio. Io stavo andando. Volontaria alla lavagna Virginia. Di cosa parliamo oggi, Virgi? Oggi parleremo di pubblicità. Che cosa? Pubblicità. Chiedo scusa. No, Iron Man, hai ragione pure te, che comunque sei anche tu un personaggio discutibile, che l'argomento è discutibile. Non so sì. se è stata Virgi o Alexa a ideare questa no. cosa. Sta di fatto che noi, anche quando la cosa è lercia, anche quando c'è il fango, tiriamo fuori il fiore, cosiddetto, e abbiamo fatto un puntatone che... No? No? Ma sì, ma sbrodola pure. Grazie, da solo. Grazie, mi sono sbrodolato abbastanza e a questo punto io farei anche una pausa dagli sbrodolamenti, rimanendo in tema, perché comunque appunto questo demone, questa cosa che noi associamo solo al capitalismo, e cioè la pubblicità, diciamo ci terrà a banco tutta la puntata, quindi dobbiamo subito prendere le distanze, poi riavvicinarci, poi prendere le distanze, poi riavvicinarci, come si confà a noi. E quindi ascoltiamo degli Scapè, Consumo Gusto. Del chaval pagar la residencia de mamá pagar. Mi vida consiste en aforar. Pago la letra del coche, pago la cuota de comunidad. Pago la puta hipoteca, pago la cuenta que debo en el bar. Pago la letra del vídeo, pago la letra del televisor. Pago el seguro del coche, pago la letra del ordenador. Puto dinero. In diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Lo spottino poc'anzi trascorso mi faceva venire in mente bei tempi quando facevamo una cosa, capi? Te lo ricordi? Ci davamo delle coordinate a tutti coloro che ci ascoltano, ma soprattutto Manu, cioè, diciamo, dove sei Manu? Dove sei Manu? Scrivi Manu? Comunque, prego. Esatto, perché come appunto fa la nostra cara Manu abbonata in prima fila, la nostra abbonata in prima fila, potete scriverci nel frattempo mentre ci ascoltate, potete anche commentare tutto quello che appunto ci ascoltate, che state ascoltando sul canale Telegram di 100 Celle Avengers, che è t.me/100CelleAvengers. Incredibile. Molto bene, ma un applauso non lo facciamo alla giornalista che dipende il suo posto. Grazie, sì. Mi avete preso in contropiede. Fino adesso ma c'era Telese fatto. Che faceva il posto suo, ma prego. Per quanto riguarda la diretta Gizzi, purtroppo ci sono state delle problematiche negli ultimi mesi. Allora, solo le cose positive, giusto? Allora, continuate a scriverci su Telegram, oltre ad ascoltarci, e potete chiaramente trovare tutte le puntate precedenti sulla pagina web di del Forte Prenestino /radioforte/100CelleAvengers. Bravissima, grazie, attrezzatissima Iron Man. La pagina del sito del Forte Prenestino /Radio40, trovate tutto, trovate il podcast, è incredibile. E sempre da Manu andiamo comunque, perché Manu è tutto per niente, te. Oltre ad essere la nostra fan numero uno, è anche la fan numero uno dell'artista che andiamo a trattare tra poco, ma non vi voglio spoilerare, perché la cosa bella è che io ho finalmente modo di rimettere una sigla che non sentivamo da un po', perché appunto è una rubrica che riapre i battenti nel 2023, si chiama Rise and Fall, è appunto la rubrica che tratta gli scioglimenti e le reunion dei gruppi più o meno, diciamo, fatte per soldi, diciamo, vabbè, e niente, sigla, Rise and Fall. La nostra relazione è terminata. Insieme a te non ci sto più. Lasciamoci. Lasciarsi un giorno potresti dire addio. Lasciarsi e qui non ci sto. Vai. Improvvisamente stiamo di nuovo insieme. Stiamo insieme di nuovo. Che bellezza. La nostra banda vale. Ricominciamoci, siamo un bicicco. C'è un fuoco sotto la cenere. Ci saranno chi ti aspetta ancora. Ma che succede? Benissimo, mi piange sempre il cuore quando risento la sigla. A Rise and Fall quest'oggi parliamo nuovamente di un caso già trattato, perché noi siamo come quei giornalisti che tornano sulle inchieste dopo. Noi comunque torneremo qui, tipo Giletti, no? Però noi fra un anno siamo qui e controlliamo. Okay. Nostalgici. Ok, quindi parliamo di Amadeus. Però basta. Potremo anche. No, quello che volevo dire è mi si spezza il cuore, perché sono sempre dei miti anche per noi. Parliamo un'altra volta di Elio e le storie tese, che le abbiamo lasciati sciolti, ma in 100.000 concerti di scioglimento, che proprio è l'ultimo. Vabbè, mo io dico, se si fossero riuniti musicalmente e basta, sarei stato il primo a scendere in piazza a festeggiare. Sta di fatto che io li sento così. Rompicoli, scartoffie. Scartoffie. Facciamo la rivoluzione! La rivoluzione! La rivoluzione! Questa volta non dobbiamo fare un tasso! Con Conto Arancio hai l'interesse senza fare un tasso! Metti i soldi quando vuoi, li togli quando vuoi! Sono loro, eh! Fai quel tasso che vuoi! Oh mio Dio, incredibile! Puoi anche non fare un tasso! La cosa che mi dà fastidio è che mi fa ridere a me sta cosa del tasso, cioè, e soprattutto avrà fatto ridere il direttore di banca di Conto Arancio, perché è geniale senza fare un tasso. E quindi, cioè, non lo so, io mi sono sentito veramente, no, non vorrei essere tradito. Banale. Ma cioè, non è la prima volta che tra l'altro che loro fanno sono pubblicità passati al lato scuro della forza. Assolutamente. No, già erano tutte le volte mi sono chiesto anzitutto quanto potessero essersi fatti pagare per comporre canzoni proprio da zero, esattamente proprio nel loro stile, eccetera, eccetera, ma per il male, o comunque per delle grosse compagnie che non sono neanche a dire. Cioè, li vediamo anche ogni tanto, non so se avete visto nella pubblicità quella ricicla il vetro correttamente. Sì, per ogni tanto, però poi Conto Arancio alla grande. Quindi, insomma, vedendo il mondo che mi si sgretola, gli intellettuali musicali, intendo, che io consideravo più alti, che mi si sgretolano, ripeto. Mi sono chiesto se non fossi io il problema, come al solito, cioè, quando poi ti butti sempre giù. No, però quando litighi con tutto, con tutti i tuoi valori, con tutti i valori, insomma, con tutto, dici vabbè, ma allora sono io che non sto a capire. E la grande tesi di quest'oggi è proprio quella, voglia che avevo, prego. No, vabbè, mi viene in mente quando Elisa è andata da Amici, cioè io l'ho vissuta. Vabbè, non mi sembra la stessa cosa, assolutamente. Vabbè, scusate, ma perché anche sono io. No, anche lì ci si è spezzato un po' il cuore, e non è però la questione poi se un artista finisce a fare una roba per soldi, più o meno, direi per soldi. Ma se la fa bene, se ci mette proprio, capito? Già, ci crede. Come puoi tu poi giudicare quella cosa? Cioè, la giudichi totalmente una cagata o dici però... Però io fossi in te ridimensionerei un po' la cosa, perché le storie tese se fanno bene una cosa non la fanno così, la fanno mille volte meglio, quindi l'hanno fatta sicuramente un po'... Ah sì, magari dal loro punto di vista è tirata via. Ci piace a tutti. Ma infatti, non era tanto questa quanto l'arta che poi fecero, che magari la mettiamo dopo, però, che era particolarmente sentita. Questa di non fare un tasso, in effetti, vabbè, la potrebbe aver scritta successo, ammettiamolo. Non è proprio che magari... mi sono sentito tradito fino in fondo. Magari Elio gli serviva il mutuo. Sì, no, cioè, poi andare a scavare ci rattrista tutti. Cioè, Manu, per che capire dici? Come sono andate le cose. Dici la tua. Manu, scrivici la tua e io già mi dimentico che cosa succede appresso a questa cosa. Che devi mandare il brano. Che ci ascoltiamo un po' di musica, anzi ci ascoltiamo un'altra radio, perché noi siamo un'altra radio, ma vorremmo essere un'altra radio ancora, questa. Al 48248 ti abboni ad un logo e suoneria a settimana e con i primi due contenuti puoi ricevere in regalo una suoneria davvero originale. Chi sei? Cosa vuoi? Cosa vuoi? Se vuoi questo in regalo, scrivi 51 al 48248. Hi and welcome to Happy Noise. Happy Noise is a logical and consistent approach to learning and playing good rhythm guitar. Mangiamo in fretta e poi corremo via. Quanta emozione, un calcio ad un pallone, tu che c'eri piano, amore mio schiavo. Neve disciolta al sole, sull'erba i nostri figli ad aspettare, e mentre io segnavo a far l'amore. Strano gioco, dai qui sta sempre fidando, e poi un bel mattino ci svegli con la voglia di ritornare bambino. Un'altra primavera, chissà quando verrà, per questo dalla vita prendo quello che era. Enoteca Forte Prenestino, dove anche il cibo ti avvicina al divino. Radio Forte 100 Celle Avengers in diretta alle 5.20 del 28 gennaio del 2023, e c'è sta un responsabile qui agli spottini che è impazzito e sì, sta mettendo a raffica, sembra questi messaggi quasi che po', proprio eh? Oggi noi si sia qualcosa diventati qualcosa che ci solletica l'inconscio, per l'appunto, quasi avessimo un ospite che anche lui è venuto qui tutto sommato a farsi o a fare pubblicità. No. Forse ho approcciato male, trattasi, scusami, di pubblicità ma non la pubblicità. Non so se si era capito che stiamo per parlare con Guido, non di Guido, perché lui è qui. Ok, grazie. Però, per l'applauso. Ciao Guido, bentornato. Guido, l'ultima grazie, volta, grazie, no, la prima Guido. Volta era questo. Mi hanno censurato, questa non è la radio libera, sì, non è la radio libera. Allora, ma oggi Guido è una persona più libera. Pacata, sono diventato una persona pacata pure di frequentarvi. Assolutamente, e quest'oggi abbiamo detto che viene in veste molteplici, perché c'è da dire che è appunto autore dello spottino che avete ascoltato poc'anzi. No, infatti vorrei fare una piccola precisazione, cioè io una protesta ufficiale. di già. Sì, già. No, io... non mi sembra per niente strano, prego. Lo spot che io l'ho fatto perché c'era un pagamento previsto, che era un piatto di pasta e fagioli. Non che ti era... è stato recapitato? Mai. Cioè, mai. Quindi io adesso... Ma perché restate qui? Adesso... Giriamo di servizio questo appello all'Enoteca che ci sta ascoltando. Sì, responsabile dell'azienda Enoteca. E riportiamo questo disservizio che comunque sarà stato temporaneo, Guido. Non credo proprio che tu ti possa lamentare dell'Enoteca, almeno nei tuoi confronti. Ti ho visto... Non lo so, io stavo per scatenare il mio legale, che fra l'altro è qui a pochi metri. Beh, considerato che diciamo il vino dell'Enoteca comunque continua ad avvicinarti al divino, Guido... Faccio assolutamente i tuoi interessi nel dire che ti conviene approcciarti al vino piuttosto che ai fagioli. Cioè, non so, a questo punto. Quindi forse la protesta è perché vuole la pasta e fagioli, cioè, anche d'estate. No, io voglio il cibo, voglio in generale. Va bene, Guido. Non voglio patteggiare, cioè io voglio proprio. Secondo me voglio pasteggiare. Va bene, allora ci batteremo per una pasta, una giusta pasta e fagioli. Cioè, si capisce già che sei un personaggio scomodo senza che, capito, che cioè, nel senso, io sto no, ma io sono cambiato, non sono più scomodo. No, lo so, cioè, appunto, io stavo appunto per presentarti in una maniera che fa capire perché sei qui anche dal mio punto di vista. Qual è il mio punto di vista? Quello del fonico. Quindi il fonico com'è che si lamenta a Centocelle Avengers con l'apposita rubrica che si chiama Traumi Fonici. Sigla. Sei fregato. Che cazzo state dicendo? Andiamo! Sono il vostro fonico! Siamo nella valle, bello. Ci sono un sacco di fonici qua. E quest'oggi a Traumi Fonici, rapidamente, perché è solo una scusa per sentire la bellissima sigla e la voce di Guido. Noi parliamo appunto di Guido. Guido come artista appunto poliedrico, quindi diciamo dei visual, sculpture, arts, cioè diciamo un po' tutte le arti. Cioè, sapete, sì, sono io, diciamo, queste cose io sono. Sì, sto cercando di introdurti bene, ma non so se poi se vuoi precisare, fallo nello spazio apposito. Dicevo, oggigiorno le arti si mescolano in una multimedialità che insomma che assolutamente in radio è difficile rendere, per cui già siamo un po' zoppi, però appunto parliamo di quando Guido venne per la prima volta, almeno ai nostri occhi del Forte Prenestino, a presentare la sua ultima opera, di cui ovviamente adesso parlerà lui. Quello di cui vi parlo io è l'aspetto, diciamo, organizzativo della cosa. Crack è il Festival del Fumetto al Forte. Molti lo conoscono, c'ha, si svolge c'ha a giugno. Diversi anni come manifestazione, una delle più longeve. Sì, e anche quest'anno l'avremo a giugno. E consta di una kermesse di 4 giorni di fumettisti che si piazzano nelle centocelle e non solo, a esporre la loro arte, le loro arti, non solo fumettisti, poi adesso ormai sono appunto anche lì vari artisti di vario tipo. E c'è un grande da fare a livello di concertistica, cioè ogni giorno ci sono artisti sul palco che si alternano, due palchi che uno, e quindi insomma noi siamo abbastanza sotto tiro. Abbiamo negli anni sviluppato un dialogo con la produzione, chiamiamola così, per fare in modo che la cosa non ci piova addosso come una valanga di fango, come spesso è successo, e quindi c'è un'organizzazione alla fine ferrea, per cui poi cioè, ne mettiamo tante le cose, ma quelle sono. E quando tu pensi che quelle sono, e quindi il sabato sera si è acchittato tutto in una maniera rocambolesca, metti il palco, leva il palco, metti la console, leva la console, spostami questo, spostami quello, chi ti arriva, la merenda, chi ti arriva con un broccolo in mano, scusate se ho spoilerato parte del contenuto di Guido, per presentare appunto la sua nuova opera. Nel momento e tempo sbagliato lui è andato proprio a gamba tesa dall'organizzatore e ha detto: senti, io ho questa cosa, la facciamo sul palco? Sì, certo, andiamo ma da Suano. Broccolo. Ma che problema c'è? Andiamo da Suano. Ci sta avvenendo uno spaccio illegale comunque alle tue spalle, te lo dico. È finito, cioè, veramente, cioè, è cattiveria. Questo, no, questo era per dire che non partiva bene, però se sei qui è proprio perché poi ci siamo innamorati tutti dell'opera. Ce ne vuoi parlare, Guido? Oh, vai Guido, il tuo momento. Adesso puoi tirare sulla cosa. Devo essere serio, cercare di spiegare, quindi no, dire... non troppo. Anzitutto comincerò tutte le cose noiosissime che ripeto sempre, che è un'opera in resina e pittura critica. Vogliamo dire il titolo. Ispirata al più grande dei vegetali, il broccolo romano. E il titolo è molto bello. Grande. Chi non ama il broccolo romano? Esattamente. E il titolo dell'opera è Brom, perché la prima attività creativa che io ho compiuto è quello di colmare una lacuna della lingua inglese. Cioè? che quella... non ha un termine per il broccolo romano, in realtà non c'è neanche in italiano, però in realtà io ho cominciato dalla lingua inglese, quindi è una crasi inglese delle parole broccolo e Roma. Sì, broccolo Rome. Rome, io adesso non vorrei sbagliare la pronuncia, però Brom. Sbagli la pronuncia della tua opera, Guido? No, è così, falsa modestia la mia, ecco. Va bene, quindi constava di un... no? Com'era? Un broccolo su un broccolo colorato, adesso non vorrei svilire. No, su un giradischi. Ho già preparato delle frasi. Ah, sì, ma quanto è grande? Misurato, scala formati. 1-1, scala 1-1, ecco, presentato a crack, l'avevo messo su questo piatto che girava, e, perché in realtà vado subito al dunque, individuo e evidenzio i due elementi che mi hanno spinto a usare il broccolo per la mia opera. Prego. I due elementi sono che l'opera in realtà ha due finalità, una è a un lato è esoterico e l'altra a un lato esoterico. Esoterico ho detto, Non so se vi rendete conto, Una parola che io... Il batterista ha capito. Si spieghi. Io in realtà tutto sto ambaradan l'ho fatto perché a me piace proprio citare questa parola esoterico per poter evidenziare che la conosco, ecco, per fare bella figura e così. Mitico, ma non l'ha spiegata. No, in realtà esoterica è molto semplice, è pop, popolare, cioè in realtà si usa quando riguarda per esempio una religione, gli aspetti di questa religione che sono chiari e comprensibili ai più, mentre invece gli aspetti esoterici sono gli aspetti più nascosti. Mi verrebbe da dire più subliminali. Allora, ricordo a tutti, anche gli ascoltatori, che Guido normalmente non risponde alle domande, quindi non è abituato forse, e è inutile continuare a farlo. In due o tre interventi che ha avuto negli anni, nei mesi qui in Radio Forte, gli abbiamo posto delle questioni anche importanti, diciamo che lo dico a chi cercasse il senso di quello che lui dice, cioè occhio, perché o vi segnate tutto magari e potete ricostruire con la registrazione forse cosa voleva dire, ma in realtà lì per lì la butta in caciara. Io dico occhio perché magari lì per lì non te ne accorgi. Ma io ho compreso benissimo questa volta, devo dire. Ok, allora è solo una colpa. Cioè io ho il nemico in casa, cioè io... fammi la domanda e io rispondo. Non è così. Quella domanda che ti volevo fare io è molto più terra terra. È acquistabile il Brom? Acquistabile dappertutto. Adesso io voglio proprio invadere il mondo come i Brom. Quindi non siamo qui a pubblicizzare solo, diciamo, l'eventuale visita guidata nel posto in cui il Brom è custodito, tipo Louvre o... Il mio ego. No, quello ok. Ma tipo... ma anche il prodotto. Ma anche spingersi il prodotto online. Esattamente. Cioè, possiamo avere tutti un Brom a casa. Esatto. Un Brom in ogni casa. Questo è l'obiettivo aziendale. Dobbiamo ricordarci quello che è il fil rouge, insomma, di questa puntata, che è appunto quello della pubblicità. E quindi e difatti, va da sé che parliamo di prodotti commerciabili, insomma, anche di mercato. Di mercato, di massa, ecco. E cosa abbiamo fatto noi? Abbiamo fatto uno studio su quello che si poteva fare, quello che non si poteva fare. Insomma, la tesi era la nostra possibilità di sfruttare la pubblicità nei suoi elementi anche più nascosti, diciamo, più illegali. Quindi Guido ci servirà, ecco, durante tutta la puntata per ricordarci questo piccolo meccanismo messo ormai in atto da diversi anni. Poi abbiamo visto che insomma sono intervenute, e questa è la piccola nota anche giuridica che faccio, legali, cioè, occhio, Guido. Sono intervenuti divieti, insomma, banalmente, perché parliamo proprio della pubblicità subliminale. È vero. Trattavasi però del 57, cioè già se ne sono accorti nel 57-60 che era una cosa che forse era un po' eticamente discutibile. La provò la Coca-Cola scrivendo bevi Coca-Cola, mangia popcorn, bevi Coca-Cola, mangia popcorn, a livello di fotogramma, quindi un 25esimo di secondo che ti scorreva davanti mentre guardavi il film, non te ne accorgevi. Sì. E si dice, perché cioè per me è una leggenda un po' metropolitana, come quelli che studiano la notte le lingue con la cuffietta e poi si svegliano che sanno la lingua, cioè non è dimostrato forse del tutto che questa cosa istighi proprio a uccidere o a bere Coca-Cola, però l'hanno levata, intanto l'hanno levata. Ma noi cosa abbiamo fatto? Noi abbiamo un territorio fertile che è l'audio. La radiofonia è il nostro, diciamo, terreno di sperimentazione, e dopo il musical radiofonico noi siamo qui con un certo orgoglio, scusatemi, sabato 28 gennaio 2023 a sperimentare la pubblicità subliminale radiofonica. Grazie. Beh, io direi... Posso fare i complimenti a questa trasmissione, perché in realtà è innovativa. Devi. E io penso che, non lo so, a mio conoscenza non c'è nessuno che ha fatto per radio uno spot subliminale, ha fatto la pubblicità subliminale per radio. Credo che credo proprio che tu abbia ragione, che siamo i primi e è proprio questo che ci rende ciò che siamo. Brom! Brom! Ecco, dovrebbe essere proprio questo, diciamo, l'obiettivo. Vediamo se alla fine andrete a comprare questo bro. Ovviamente, cioè, ma tutta così oggi. Confidiamo che ci siano ascoltatori che si connettono dopo, perché sappiamo che il subliminale funziona se non lo sublimi, cioè se non lo sai, insomma, se no non è più, non è sotto, esatto. Non è inconscio. Cioè, non dobbiamo stare in continuazione. Quindi, comunque, a sottolineare che assolutamente, adesso l'abbiamo detto. Vai, Manu, dici se ti è venuta voglia solo di broccolo romano. Esatto, e poi Guido ci parlerà della curva di vendita nella prossima puntata. Comunque, io volevo solo dire che nel broccolo romano ci sono i numeri di Fibonacci. Numeri! Esatto. Eccolo. Gente, l'ha fatta apposta. Gente di me. Cultura, gente di cultura che ha subito colto il lato esoterico il dell'opera. Il nostro John Nash colpisce ancora. Secondo me l'ha fatta apposta, comunque, di numeri. La geometria del broccolo romano che è bellissima. Ogni broccolo è a sé, cioè non c'è un broccolo uguale ad un altro, come fiocchi di neve. Come fiocchi di neve. Esatto. Grandi, ragazzi. Un broccolo è per sempre, The Beards. È un frattale, noi ne sappiamo troppo. È un frattale, è una spirale in espansione che segue appunto la sequenza di Fibonacci e, sì, e si rifà una proporzione alla sezione aurea. È incredibile. No, no, ma infatti tu sei di nuovo. Sei un artista. Ne abbiamo Guido, già parlato. Praticamente abbiamo finito la puntata, raga. Io, vabbè, il Brom comunque rimarrà nei nostri. Io avevo anche la ricetta per cucinarli. Io il Brom? Quella fa parte di una rubrica a parte che prima o poi inizierà, cioè la rubrica di cucina, ma ne parleremo culinaria in futuro. Adesso, cioè, mettimi una musica generica che ho voglia di niente. Esatto. Cioè quella trasmissione lì. E quindi cosa ascoltiamo, Virgi? Dimmi tu e io scateno l'inferno. Vado io? Annuncio io? Ascoltiamo un brano di Jane che si chiama Makeba. Ah, aspetta, dobbiamo ringraziare Dente Marcio DJ, ecco, questo lo volevo dire perché è lui che ci ha segnalato questo brano. Quindi grazie Dente Marcio, direttamente da Cosenza. Robert T. Gotta get a ooh, makes my body dance for you. ascoltando Radio Forte 100 Avengers. E sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers. Non vi dico che cosa è successo qui, perché sembrerebbe quasi che Guido c'entri qualcosa, ma non ve posso lasciare soli 2 minuti. Allora, no, nel senso, ho preso poco tutto, ecco, ne siamo ancora fuori, forse, però diciamo che c'è puzza di bruciato qui, un ampliguffie si è diciamo immolato, ha sbambato, come dice a volte Gabri, quindi non in senso figurato, non in senso figurato, ha fatto proprio il fumo e l'odoraccio. E qual era questa ampliguffia? In che postazione si trovava? Perché io ho detto che non volevo accusare nessuno, però a me tutte queste coincidenze poi un pochino mi fanno pensare. Quindi anche oggi abbiamo censurato Guido. No, sì. Dato fuoco, diciamo che lui che ci stava così per censurare a noi del brutto, ecco. Non mi avrete, sai, l'ha le cose detto che fa lui quando si impunta. Ho visto che era chinato sotto l'amplicuffia a fa qualcosa, in effetti. Cioè, io mo da vittima divento carnefice. Non capisco. Mo va, brucio sta radio. Niente, Guido, ti sei voluto vendicare della presentazione di prima, io capisco pure, però... Cioè, Anche meno. Adesso parliamo di artisti. Quando sarà possibile sostituiremo il pezzo... Comunque, sempre di artisti si parlava, appunto, da Guido a un altro personaggio di cui vi vorrei parlare, nella rubrica che non ho mai praticamente presentato, che corrisponde a Importa a Molti, acronimo IAM. Per la cui sigla ha contribuito anche il personaggio di cui andiamo a parlare, cioè Simone Legno, il grande, che salutiamo, che ci ascolta sempre. Ciao, assolutamente. Simo. Non è esattamente in zona, ma noi siamo una web radio, arriviamo ovunque. Sì, tra e Giappone. Che ruolo States ha, oltre appunto a essere appunto socio fondatore degli Happy Noise? E, quello di avermi parlato in un'epoca non sospetta, eravamo giovanissimi, così, molto così, pistelli, quindi sicuramente non ancora affascinati da, o oppressi dalle problematiche economiche. Mi parlava, siccome frequentava l'Istituto Europeo di Design, quello che poi lo ha portato a fare, insomma, il lavoro che fa e oggi, a diventare insomma anche il creatore del brand Toki Toki, che tutti conoscono. Facciamogli pubblicità, almeno amico mio, per favore. Ecco. Che comunque è amico di tutti, ormai lo conoscono tutti. Sa di fatto che è il primo che mi parlò in maniera un po' più smaliziata della pubblicità, in maniera meno banale, meno ermale, insomma, e presentandomela appunto come un mezzo, se non altro, molto potente, dotato di, diciamo, capacità di penetrare notevoli, e il cui uso, come direbbe appunto qualche supereroe, è riservato a pochi, o comunque, insomma, è difficile, è un'arte, alla fine è una forma di arte, e la su questa sì purtroppo, con un certo spirito moderno, ormai ci siamo tolti le solite cose, possiamo un attimino approcciarla eventualmente come un, diciamo, un cercatore del 3000 del terzo millennio, che ritrova i resti della nostra civiltà, trova uno spot pubblicitario e non è che dice ah che merda, cioè, insomma, lo attribuisce a tutta, trova una forma di espressione dedicata a una cosa commissionata da uno, commissionata. E quando si parla di committenza, attenzione, e di arte, io mi sento che mi devo fare 2, 5, 6, 8 passi indietro e lasciare eventualmente parlare chi di questo, tra l'altro, aveva già cominciato a parlare 2 settimane fa. Però sta di fatto appunto che la pubblicità in sé per sé ci risulta un po', come ho detto prima, una cosa da cui prendere distanze, poi perché comunque, anche soprattutto nel livello musicale io parlo, saper imbroccare il motivetto non è per niente una cazzata. Infatti a farlo sono sempre dei musicistoni che poi se lo fanno per soldi o non lo fanno per soldi, ma sta di fatto che lo fanno in una maniera studiata. Sì, ma sicuramente diciamo che è una forma d'arte, scuola, anche studiare nel momento male in cui sì. Nel momento in cui l'arte veicola messaggi, veicola i messaggi di quel tempo. Ecco, da questo punto di vista possiamo trovare quindi questa, diciamo, somiglianza, darle questa accezione un po' positiva che stiamo cercando di darle come una segno chiave di lettura. Esatto, una comunicazione. Apologia della pubblicità. Non era quella l'intenzione, al limite studiare il nemico e renderlo la nostra arma, ma esatto. E quindi insomma, no, dicevo che è questo appunto una forma d'arte. E quindi chi è questa espertazione, allora, che ci può aiutare? Allora stiamo per lanciare la rubrica Artifizi. O meglio, artifici. Ah, mo, mo a Z hanno messo, scusa. Perché lo dico così sempre per scherzare, poi mi è rimasto. No, si tratta di artifici, Aulico, la rubrica di storia dell'arte. Allora, questa volta partiamo subito con la sigla, perché qual è il miglior modo per ringraziare Angelo, che ci manda quindi sempre il suo contributo da lontano. Quindi vai, regia, con la sigla di artifici. Sigla. Grazie Angelo, grazie Angelo, non conoscendo affatto la storia dell'arte. Grazie Angelo, grazie Angelo, sempre gradevole, sempre importante. Grazie Angelo, grazie Angelo, ma ancora vorresti narrare la storia dell'arte. Allora riprendiamo le fila del discorso, quindi già iniziato la volta scorsa con arte e committenza, quindi questo argomento di arte e committenza che stavamo dicendo appunto ben si sposa con il tema che stiamo affrontando, quella della pubblicità, perché in fondo appunto parliamo di di potere che si veicola attraverso i mezzi di comunicazione. E quindi in qualche modo scopriamo in questo contributo di artifici come quel simpaticone di Gregorio Magno, che fu papa nel VI secolo, quindi in pieno alto medioevo, abbia reso celebre proprio la Chiesa attraverso l'uso di immagini e di statue, una forma appunto primordiale di pubblicità. Quindi vai col contributo. Eh sì, caro Iron Man, proprio così. Stai ad ascoltare. Il Medioevo comprende 10 secoli, quindi dal quinto al quindicesimo. Dal quinto al decimo si chiama Alto Medioevo, dal sesto al quindicesimo, no, ho sbagliato, dal quinto al decimo è Alto Medioevo, dall'undicesimo al quindicesimo Basso Medioevo. L'arte coincide per tutto il periodo quasi esclusivamente con l'arte cristiana. Ora, per i primi tre secoli, l'avevamo accennato anche la volta precedente, l'arte cristiana non esiste, perché nella Bibbia è disposto il divieto di riprodurre in pittura o in statua la divinità, e ciò per evitare che si creassero degli idoli che fossero a loro volta oggetto di adorazione da parte dei fedeli. Quindi per evitare la idolatria era vietato assolutamente, sia presso gli ebrei e per i primi tre secoli del cristianesimo, di rappresentare Cristo, Madonna, lo stesso Dio e quant'altro. Dal IV secolo in poi l'arte cristiana si è andata sviluppando ed ha avuto una grande diffusione grazie all'attuazione del programma di un papa, al quale pure abbiamo fatto cenno, Gregorio Magno, del VI secolo. E Gregorio diceva: la pittura può servire all'analfabeta quanto la scrittura a chi sa leggere. Quindi Gregorio aveva capito quanto fosse radicata nella cultura dei popoli che facevano parte dell'Impero Romano l'uso di immagini e statue. C'erano stati secoli nei quali l'arte greca e romana erano state fiorentissime. Intuì quindi che col potere acquisito grazie agli editti di Costantino prima e di Teodosio dopo, lui che era papa aveva il potere di volgere tutto a vantaggio della sua chiesa, della sua dottrina, così come era accaduto per le feste della tradizione e dei culti precedenti, tutte convertite in feste cristiane, cioè le feste che oggi noi festeggiamo, Pasqua, Natale, Capodanno, Ferragosto, corrispondevano tutte a feste già praticate prima del cristianesimo. Il cristianesimo, con una campagna politica molto efficace, ha lasciato la festa, ma ha cambiato il destinatario della festa e il motivo della festa. Peraltro nel IV secolo fu avviata anche una sistematica distruzione di tutte le opere d'arte dei periodi precedenti, compresi templi, mitrei, cioè i tempi dedicati a Mitra, e qualsiasi struttura ad essi collegata. Bontà loro si diedero alle fiamme, biblioteche, libri, opere d'arte, esattamente come fanno adesso i talebani, e ci scandalizziamo tanto, ovviamente. La stessa cosa avrebbe fatto un dominicano, Savonarola, a Firenze, nel 1497, la stessa cosa hanno fatto i nazisti il 10 maggio 1933 a Berlino, a Bebelplatz, quando si bruciarono 25.000 libri ritenuti pericolosi. Insieme ai libri poi si bruciarono, ma in altre occasioni, tante tele, tante opere dei pittori di allora, soprattutto gli espressionisti, tutte opere bollate come arte degenere. In realtà quei nazisti, i capi, che erano furbi e capivano un po' qualcosa, hanno confiscato, hanno tenuto per sé molte tele, e quando cadde poi il regime furono ritrovate e ovviamente furono riconsegnate ai rispettivi proprietari o condotte in gallerie e musei di Stato. Torniamo a Gregorio. In altri termini, Gregorio, invece di ipotizzare l'avvio di un programma di alfabetizzazione degli analfabeti, che erano la stragrande maggioranza della popolazione, ha pensato al modo di educarli e catechizzarli attraverso le immagini. Sono passati già 10 minuti, ci fermiamo qui e ci sentiamo alla prossima occasione. Grazie e buona serata a tutti. Ma che bordì? Io te l'avevo detto. Cosa? No, che pestata inventata. Guarda che io te l'avevo detto. Nonni, io stasera c'ho già un programmino che non me caghe. Te l'avevo detto, no, sfonda rossa radio forte. Oggi presentiamo l'antifestival, varietà per bimbi di ogni età. Ah, ecco, sì. No, beh, ma questa te lo poi. Ma no, io, guarda, le devo dire, mo stacco e me ne vado. Io te l'avevo detto. Guarda, siete molto gentili, ma io non sto interessato. Ciao, ciao. Io te l'avevo detto. Ma ci sta Sanremo, Amadeus, Achille, Lauro. Te l'avevo detto, no. Sì. Nessuna ti porterà. Che? Questa sera va. Non del festival, sì. Di chi non sopporta più nell'altro festival. Ah. Te l'avevo detto, no, sfonda rossa radio forte. Sanremo poi con l'antifestival, partecipa chi so, chissà chi vincerà questa varietà. Che si chiama Mitra. Celle Avengers, Radio Forte, 28 gennaio 2023. Ma voi dove siete? Siete a sud? Siete a est? O forse a ovest? Oppure a nord? Sigla! Il mio pinguino di ceramica nello studio guarda sempre verso Radio Forte, 100 Celle Avengers, è una rubrica adotta che si chiama Nordelman. Come l'ha chiamato? Not to love his man. su 100 c'è la legge. Buonasera piccoli nerd, che più che Gotta Catch Em All sarebbe dovuto essere Gotta Buy Them All, e ora capiremo perché. In tema di pubblicità, questa volta vorrei riportarvi a un tipo di pubblicità molto nerd e molto particolare, cioè i cartoni animati. È un po' particolare il fenomeno che ha portato alla creazione nel tempo di cartoni animati che di fatto nacquero dopo la creazione dei giocattoli relativi. Anzitutto va detto che il concetto di pubblicità sui giocattoli come la pensiamo noi è molto tardivo. La vendita commerciale di giochi per bambini divenne popolare solo, pensate, a metà del XVIII secolo. Prima di questo i bambini avevano accesso a relativamente pochi giocattoli e di quelli in uso la maggior parte erano fatti a mano, dal bambino o da un parente stretto. Oggetti molto basilari come cerchi, trottole, palline e bambole che potevano essere realizzati da falegnami o bottai locali. Un diverso interesse per i giochi per bambini nacque con l'emergere di una classe media in cui ci si aspettava che un minor numero di bambini lavorasse. Sad but true, come direbbero i Metallica. L'atteggiamento di quei tempi nei confronti dei giocattoli era che dovessero essere educativi. Di conseguenza, i produttori avevano progettato i loro giochi per preparare i bambini alla vita adulta. Ad esempio, un cavallo a dondolo insegnava ai bambini a tenersi in equilibrio e li preparava per l'equitazione, mentre una bambola preparava le ragazze alla maternità e all'educazione dei figli, mentre i soldatini insegnavano ai ragazzi l'esercito. La pubblicità era quindi rivolta più ai genitori, per convincerli del valore educativo dei giocattoli, che ai bambini stessi. Andando avanti nel tempo, il fatto che le famiglie fossero meno numerose significava che i bambini avessero meno fratelli e sorelle e che i giocattoli diventavano un diversivo e un intrattenimento. E l'aumento del tenore di vita e dei salari significava che i genitori avevano più soldi in tasca. I bambini quindi rimanevano a scuola più a lungo e avevano meno tempo per realizzare i propri giochi e dipendevano maggiormente dai giocattoli fabbricati. A metà del XIX secolo, gli sviluppi tecnologici come l'invenzione delle macchine per lo stampaggio in lamiera facilitarono la produzione in serie di giocattoli poco costosi come quelli di latta. Fun fact, i primi robot giapponesi vennero fuori proprio da questo, dalla produzione di giocattoli in lamiera prodotti a causa di un incentivo del governo americano che, per aiutare lo sviluppo dell'economia giapponese, fornì al paese le lattine avanzate da letterate per i soldati durante la Seconda Guerra Mondiale. Assurdo, eh? Entro la metà del XX secolo l'approccio tradizionale del marketing attraverso i genitori e le madri in particolare andò scemando. I bambini ormai ricevevano paghette, avevano soldi loro e prendevano decisioni di acquisto come parte della loro educazione al mondo del consumo. Che tristezza! E così la pubblicità ha cominciato a essere quella che conosciamo noi, rivolta ai bambini, fino ad arrivare a quelli che vennero definiti come half an hour commercial, cioè pubblicità lunghe mezz'ora. Episodi di cartoni il cui unico scopo era proprio pubblicizzare i giocattoli relativi. Non è un'esagerazione, le stesse Hot Wheels vennero definite tali nel 69 dalla FCC, la Commissione Federale per le Comunicazioni degli Stati Uniti d'America. È così che sono nati i vari Men, i Transformer, i Pokémon, i G.I. Joe, gli Orsetti del Cuore, i Mio Mini Pony e in tempi più recenti Yu-Gi-Oh!, le Beyblade. Caso che ci è particolarmente caro per motivi di Dose Elementos è quello di Gem e le Hologram. No. Nate! Oh. Eh sì, ragazzi! Questo. Loro nacquero in casa Hasbro, pensate, come una versione rock di Barbie. Sì, io ce l'avevo. Lo so che questa cosa è strana. Nacquero lì fino a diventare un cartone di 3 stagioni negli anni 80 e un live action nel 2017, entrambi dei flopponi, ma che comunque ci sono rimasti nel cuore. Tra l'altro, Iron Man, vi vorrei far notare che Gem, nella sua storia, aveva una sorta di intelligenza artificiale ante litteram di nome... Eh sì, Energy, ve la ricordate? Energy la supportava, le permetteva di trasformarsi dall'anonima Jerica alla star Gem. Non lo so, mi ricorda qualcosa? No. E Iron Man, ne sai niente tu? Quella storia di Jarvis? No, perché poi, tra parentesi, Energy risale al 1985, mentre la prima apparizione di Jarvis in versione AI e non maggiordomo è del 2008, con l'uscita del primo film. No. Chi è nato prima? No. Il Jarvis o la gallina? Ormai Iron Man c'ha Alexa e basta. Sì. Non gli serve più Jarvis. Ragazzi, con questo concludo lo spazio dell'angolo del nerd. Vi lascio, per il grande amore che gli porto, alla sigla di He-Man. Con grazia, proprio. Sì, con grazia. He-Man e i dominatori dell'universo. Io sono Adam, principe di Eternia, il difensore dei segreti del castello di Grecia. Questo è Krinder, il mio eroico amico. Scoprii di avere certi favolosi poteri segreti il giorno che sollevai verso il cielo la mia spada magica e dissi: per la forza di Grayskull! La grande forza è con me! Krenger diventò il possente Battlecat e io diventai He-Man, l'uomo più forte e potente dell'intero universo. Soltanto in tre sono a parte del mio segreto. La nostra amica Sorceress, Man-at-Arms e Orko. Insieme difendiamo il castello di Grayskull dalle forze demoniache di Skeletor. Questa trasmissione è offerta da... Bazzai! Bazzai! Voglio una vite così, una piratore così, se la di Bazzai! Bazzai! Bazzai! Il mondo della radio è un pasticcio. Radio Forte, 100 Celle Avenger è molto meglio di qualsiasi cosa abbiano lassù. Radio Forte, 100 Celle Avengers, sempre in diretta in questo sabato 28 gennaio. È finita la prima ora e quindi, se fossi quell'altro, direi campanella, perché è il momento della vera cultura, quella che ci mette alla prova, lo diciamo tutte le volte, e anche questa volta siamo un po' preoccupati perché ha detto che siete pronti? Io sono terrorizzato. Oggi poi ha dato fuoco, secondo me, lui in realtà all'antecuffia che condivideva col buon Guido. Ho boicottato, ma poi abbiamo dato la colpa, invece lui è andato a prenderne un altro. Grazie Guido. È vero. Scusa Franci se ti ho tolto l'attenzione, prego. Siete pronti? Avete studiato? Perché oggi si interroga. Sigla! Nel corso della nostra esistenza andiamo alla ricerca di parole che riescano a descrivere adeguatamente le continue perturbazioni dell'ordine e del caos dell'intero tessuto del cosmo. Auspichiamo la conoscenza, la rivelazione, la catarsi. Per questo esiste la filosofia. Ma la filosofia si fonda sulla matematica e solo la matematica può farci intuire la verità dell'universo. Non avete fatto altro che scrivere tutti i numeri di 216 cifre tentando di decifrarli, di intonarli. Non è vero? Quel numero non è niente. Non siete voi prescelti. L'ho trovato io! E io solo l'ho capito. Sarò io a vedere Dio. Mi sembra un po' fuori del programma e poi magari non a tutti interessa. Sì, sì, interessa. Oh, bene, bene. Che bello. Intanto bellissimo, bellissima la sigla di Man, che veramente mi ha riaperto il cuore. Bellissimo. Allora, dicevo, oggi si interroga, ragazzi, perché dopo tante puntate passate a spiegare, oggi arriva il momento di interrogare. Allora, in particolare, visto che l'argomento della puntata è la pubblicità, oggi vi interrogerò sul seguente quesito. La matematica può essere ingannevole come la pubblicità? O più nello specifico, come le opportunità fornite durante un quiz televisivo? Il cane mi ha mangiato i compiti. Esatto, vabbè. Sì. Allora, mio lo ha fatto davvero, comunque. Parliamo infatti di un vecchio quiz televisivo a premio americano, Let's Make a Deal. Il gioco era molto semplice. Un giocatore ha davanti a sé tre porte chiuse. Dentro una di queste si cela un'automobile, mentre dietro le altre due sono nascoste due capre. Il conduttore del quiz chiede al concorrente di scegliere una porta. A questo punto il conduttore, che sa cosa c'è dietro le porte, ne apre un'altra, svelando dietro di essa, indovinate un po' cosa, una capra. Ok. Ora, egli chiede al giocatore se intende cambiare porta oppure no. A questo punto, se siete fan di Numbers o avete visto per caso 21, dove Kevin Spacey interpreta un professore di matematica, in realtà la risposta la dovreste già conoscere. E adesso io la conosco, ma non so perché. Adesso io chiedo a voi che cosa fareste voi. E comincio da Viola. Che cosa faresti, Viola? Terresti la prima risposta o cambieresti porta? Terrei la prima risposta. Ok. Gabriella? Io cambierei. Virginia? Io la terrei. Ok, Daniele? Io terrei la capra. Sì, poi per avere che la capra. Sempre bene. Sì, ma infatti anche io punto la capra. Cioè, anche io voglio la capra. Cioè, ti fa il giardino, fa un sacco di cose. Fa il latte. Non stai a sviare, vi risponde. Pensate però, Ariel, basta. Vabbè, io tengo la porta. Lui tiene la porta. E Betta? Anche io terrei la porta perché ho la patente C per la capra. E quindi... Ok. E Guido? Io la porta. La porta. Nel senso che porteresti la capra. Ok. Bene. Però... Allora, sappiate... che chi ha risposto che non conviene effettuare il cambio si merita un bel contributo 1. Oh, ah, così. Capra ignorante. Esatto. Attenzione. Capra ignorante. No, perché lui lo ripeteva, quindi capra esatto, ignorante. Capito, così, a ripetizione. Così. Ma solo perché l'argomento è la capra, ovviamente, l'ho messa questa cosa. E allora, la scelta corretta è infatti quella di cambiare la porta. Ha vinto. Esatto. Vedi che la sapevo. L'unica ha vinto Gabriella. E vediamo perché. Allora, all'inizio il concorrente ha probabilità un terzo di vincere l'auto. Ci sono tre porte, quindi vuol dire che una sola è quella corretta. Tuttavia, il fatto che il conduttore apra un'altra porta con dietro una capra sta di fatto cambiando lo scenario del gioco, aggiungendo un'informazione essenziale al concorrente. Infatti, cambiando la porta, il giocatore vince l'auto con probabilità due terzi. In pratica, le probabilità di vincere raddoppiano. Ma com'è possibile? Ciò appare chiaro analizzando tutti i possibili casi che si presentano al giocatore rimasto con sole due porte. Il primo caso è che dietro la porta scelta in partenza c'era l'automobile, quindi il giocatore cambia e perde. La seconda possibilità è che dietro la porta scelta in partenza c'era la capra numero 1, quindi il giocatore cambia e vince. E stessa cosa la possibilità numero 3. Dietro la porta scelta in partenza c'era la capra numero 2, il giocatore cambia e vince. Numero. Numero, lo so. Non lo sottolineate perché è troppo bello. Ormai li diciamo tutti quando mettiamo un giusto po' di musica. Facciamo la conta. Sta diventando la mia ossessione. Ma infatti quindi dopo che una porta è stata svelata la probabilità non è più di due terzi ma di un mezzo perché ne restano due. Giusto? Sono sì, brava? Sì, esatto, più o meno sì. Ok. Quindi, commento pertinente. Come si evince dal ragionamento? Il giocatore vince su due casi su tre, qualora decida di cambiare la porta. La natura controindicativa di questo gioco risiede nel fatto che spesso pensiamo che il passato non influenzi il presente da un punto di vista probabilistico. Che cosa vuol dire questa cosa? Vuol dire che il fatto di aver scelto, cioè di tener fede alla prima scelta, probabilmente deriva dal fatto che uno dice vabbè, tanto la realtà non cambia, cioè anche se io cambio la porta non è che aumenti di fatto le mie possibilità di vincere. Ed effettivamente la realtà non cambia, nel senso che nessuno poi ti scambia quello che c'è effettivamente dietro le porte. Però che cosa succede? Cambia ovviamente la probabilità, come appunto spiegato prima. E infatti ciò che cambia qui non è infatti la realtà, bensì la probabilità di vincere. Inoltre, e qui rispondiamo al quesito che ci siamo posti all'inizio, questo paradosso è l'esempio di come gli strumenti messi a disposizione dal ragionamento matematico e messaggio pubblicitario siano profondamente differenti. Mentre sotto l'effetto di quest'ultimo la decisione dell'individuo è totalmente aleatoria a sensazione della serie ma me stai aiutare o me stai a fregare, alla corte del ragionamento matematico non c'è invece alcun elemento fuori controllo. Basta attingere le conoscenze che mette a disposizione per aumentare le probabilità di vincere un'auto nuova di zecca. Per cui, no, la matematica non è mendace come la pubblicità. Quindi fidatevi della matematica, studiate matematica, matematica è un prodotto affidabile, sto facendo pubblicità alla matematica. Sì, e da qui sorge un'altra domanda, la pubblicità della matematica è mendace come la pubblicità oppure no? Vabbè, ma questa, io continuo a pensare che sia filosofia, ma a un certo punto già... Inception. Questa cosa, sì, se no diventa troppo devo Inception. Rispondere. Ma Viola è ancora sotto interrogazione. Ma sentiamo anche dalle parole dello stesso Kevin Spacey, estratte appunto dal film 21, perché è vantaggioso cambiare porta. Su, coraggio, diamo a Ben l'occasione di beccarsi un credito extra, d'accordo? Lo chiameremo il problema del conduttore di quiz televisivo, ok? Ben, diciamo che stai giocando in televisione e hai la possibilità di scegliere fra tre porte diverse, intesi? Dunque, dietro una delle porte c'è un'auto nuova, dietro le altre due, capre. Quale porta scegli, Ben? La numero uno. La numero uno. Ben sceglie la porta numero uno. Adesso, il conduttore di quiz, che per inciso sa cosa c'è dietro tutte le porte, decide di aprirne un'altra. Diciamo che sceglie la numero tre, dietro la quale è seduta una capra. Allora, Ben, il conduttore ti si avvicina e dice, Ben, ti vuoi tenere la numero uno o passi alla numero due? Cioè, è nel tuo interesse cambiare la tua scelta? Sì. Ah, aspetta. Non dimenticare, il conduttore sa dove è l'auto, quindi come lo sai che non sta cercando di fregarti usando un trucchetto psicologico per farti scegliere la capra? Ma la cosa non mi interessa, la mia risposta è basata sulle statistiche, su un cambio di variabile. Cambio di variabile? Ma lui ti ha fatto una domanda semplice. Sì, ma che cambia tutto. Dacci dettagli. Ma quando all'inizio mi chiede di scegliere una porta, io ho il 33,3% di scegliere la porta giusta. Ma dopo che lui ha aperto una delle porte e mi offre di cambiare scelta, allora ho il 66,7% se cambio scelta. E quindi scelgo la numero 2 e ringrazio per quel 33,3%. Esatto. Gente, ricordiamocelo, se non si sa quale porta aprire, sempre tener conto del cambio di variabili. Molte persone non avrebbero cambiato, non so, per paranoia, paura, emotività. Ma il signor Campbell ha messo da parte le emozioni e con la semplice matematica mette il culo su una macchina nuova di zecca! Esatto. Grande. Questo era un po' come quando ti chiedono se sei un dio, tu di sempre di sì, e questo era un po'. Quando ti chiedono di cambiare una porta, tu di sempre di sì, soprattutto se vedi una capra. Ah, sei tu. Infatti, forse io un so dio? Ma quindi capito. Sono paranoica. Meno io. Sono paranoica emotiva. Però sì, è cambio. Quindi cambio. Sì. Quindi cambio. Nel dubbio. Vi lascio, visto che si parlava visto che il premio è appunto una macchina, vi lascio con un pezzone di Jamiroquai, pezzone anni 90, Cosmic Girl, appunto dedicata alla Ferrari, di cui il cantante JK è un grandissimo appassionato e ne ha tipo una collezione enorme. Quindi Jamiroquai, Cosmic Girl, il Twingo. From another time, like some baby Barbarella. Taverna Forte Prestino, dove il vegano non è un marziano ed il cibo è spaziale. In diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, quando se n'è andata abbondantemente la prima ora di divertimento, e siamo sempre qui a trattare della pubblicità nei suoi aspetti più macabri, no, delle sue sfaccettature, diciamo, frizzantine o più o meno vintage. Poi arriveremo anche a quello, perché tanto poi, no, se siamo qui è perché poi ci capita di abbiamo un passato, di avere un passato. Sì, è più ricco. E niente, non ma mi è venuta, se lo mordi? Non mi è venuta la gag, quindi niente, tutto ciò mi fa anche dimenticare ovviamente che cosa dovevo dire, ma me lo ricordo nel momento in cui si parla di riappropriarsene di questi mezzi maledetti di persuasione. E che cosa abbiamo fatto noi? Un po' leggermente cinicamente ci dicevamo oggi, cioè, diciamo, siamo stati un po', diciamo, spregiudicati nel prendere, nel fare nostri, diciamo, tartaluni mezzi, diciamo, musicali, insomma, tipici di altri spot che trattano cose molto serie, eccetera, che noi appunto abbiamo stravolto per... E fondamentalmente trovava un maestro di pianoforte, perché in quel momento questo era il problema della pubblicità Progresso, della pubblicità della nostra pubblicità Progresso, perché poi appunto la pubblicità Progresso cosiddetta è quel momento in cui la pubblicità, quella vera, diciamo, in televisiva, o almeno fino a, no, lo fa ancora, cerca di cioè fa la vetrina dell'attuale governo, praticamente le pubblicità Progresso vanno del Consiglio di pari dei passi, ministri, esatto, sono sempre presidenze varie dei consigli dei ministri che ci dicono cose tipo cioè, sono rimaste impresse tante, ecco. Erano in cinque a un rave esatto. Cioè, adesso in questo periodo potrebbero esserci non andare di Progresso ai di questo rave. Tipo, quindi occhio al Progresso, quello se volevo bevi, dire, non guido, esatto, attenzione, e tutti c'era censurano Guido. C'era pure se bevi non guido, è bellissimo. Brum, vorrei registrarla. Però brum per la macchina, se bevi non guido. Brum come rum, capito? Perché non guido. È in arrivo, certo, cellissimo. Comunque sta di fatto che noi avevamo bisogno di un maestro di pianoforte e il nostro approccio è stato questo. Al piccolo Matteo è stato tolto il maestro di pianoforte quando era solo agli inizi. Matteo ora non ricorda più gli accordi del suonato bene. Ti ricordi? Ho detto di no. Come lui, altri allievi della scuola di musica forte rischiano di non sapere suonato bene. Che vai blaterando? Per aiutare Matteo, dona al canale Telegram una dritta, un numero, qualcuno da stalkerare, poi ci pensiamo noi. E dona a Matteo un'ora a settimana di lezioni di piano. Chi stè? Matteo non può più aspettare. Salutiamo Stefanone, tra l'altro, grande maestro. Quanto è che mi chiedo tra me e me, si se possa mai fermare il tempo, questo grandioso firmamento di stelle che son come te, ma com'è che a te non ti ho mai visto? Non sei quello della. E sulle note di autori riuniti che si sono riuniti appunto per la ricerca del nostro maestro di pianoforte, che andiamo avanti con questa incredibile puntata dedicata alla pubblicità, ma con l'emozione anche di una novità. una incredibile novità. Cioè, l'avreste mai detto che a 100 Celle Avengers nasceva una nuova rubrica? No, cioè, ma non diciamo. Non succede mai, veramente. Diamo degli indizi. Però questa è una rubrica a cui teniamo particolarmente. Sì, vero, Viola. Sì, sì, sì. E anche Alexa, le, tutte le donne, tutte le donne della redazione in modo particolare. No, ma non solo, perché sono sicura che questa cosa scalderà i cuori di tutti. Ma è tutta una scusa per fare una nuova sigla. Tutta anche un po' una scusa anche per quello. Allora, anche comunque vogliamo dare degli indizi. Vai. Allora, broccoli, capre e i men. No, è corna. Però cosa? Diciamo ce n'è uno che vale più degli altri tre. Dica le capre. Dica le capre. Indovinate quale. Quale porta scelgo? Le corna. No, vabbè. Brava, oh, Gabri, ma tu oggi oggi indovino tutte le porte, incredibile. Tutte le porte, cavolo. E allora diciamolo che anche 100 Cell Avengers si è dotata di una sua rubrica del cuore. La posta del, Sigla? Diciamo sigla? Ho paura, dico. Aiuto, sigla. Vai maestro! Sì, vai! Posta del cuore. Tu mi avevi detto che dovevi ritrovare te stessa. È questo che stavi cercando. A proposito, chi è Cosetta? Cosetta? E Lulu, e Fifi, e Rosita Scichita, Lala, come si chiama lei? Ehi, aspetta, che figli ti dà più o meno circa 36, compreso me? 37. Io 37! Devo andare a lezione! Cosa vuoi che ti dica? Dimmi, cosa posso dire, cosa vuoi sentirti dire? Qual è la morale? E io, che l'ho fatta studiare a Detroit. Ti odio e poi ti apprezzo. E sto che te motivi che fa ancora se apro la busta. Ed è con questo spirito. Bella. Quant'è che aspettavo una cosa del genere, quant'è? 10 e lode per la citazione di Clerks. 10 e lode. Sì, anche se io lo dicevo che per me Joy e Dawson potevano tranquillamente spararsi tutta la sigla loro, cioè era perfetto. Mina, appesi, Mina, dov'era? Mina pure è tanta roba, comunque. Ti amo, poi ti odio. Sì, sì, sì. E infatti, vabbè, a parte che per avere questa rubrica, cioè la posta del cuore, dovremmo avere una posta da leggere, come vecchi tempi. Vai, Manu! Apro la busta. Sul Telegram. Attraverso, come dicevamo noi mercoledì, due mercoledì fa, sul caro Cioè, c'era una grande posta del cuore, ma noi, ecco, potremmo fare le veci del Cioè, diciamo. Sì, esatto, sì. Facciamo il Cioè radiofono. Noi siamo, con la posta del cuore, siamo un po' uno... Cioè, il nuovo diteci cioè. Se volete le letterine dalla redazione alla maestra Viola. Sì, infatti, per le prossime sì, ragazzi, puntate. Sì, fatevi avanti. Qui... Finanziateci un birillo. Qui vai, stiamo, Guido. Stiamo studiando da tanto tempo. Il C'eravamo tanto amati. Perché poi dal C'eravamo tanto amati si diventa ex. E sì. Quindi questa, diciamo, è la prima. Non, nessuna lettera ci è pervenuta. Però, diciamo, è una condizione. Abbiamo iniziato adesso. Questo era idea, non era. Non c'è una lettera, però pur da qualcosa dovevamo iniziare. Riceverai un poster di Leonardo DiCaprio. Diciamo anche lo Star System, ecco, ci fa. Ci manda segnali, no? E noi li cogliamo questi segnali e ci ritroviamo anche nelle storie appunto di queste celebrity. E quindi si diventa ex, quindi si esce dalla vita dell'altro e si porta con sé tristezza, rabbia e si rimane sottofondo consono. Si rimane in qualche modo soli e ci si chiede come si fa a funzionare senza l'altra persona. E, ma qua si va poi nel trattamento di anche disturbi di personalità, quando percepiamo l'altro come oggetto sé e quindi si va nei meandri della dipendenza emotiva. E se noi comuni mortali, ecco, ma anche le celebrity, ne sono convinta, facciamo di tutto per stare bene, ecco, non vogliamo sguazzare in questo male, in questo oblio d'amore non, che facciamo? Andiamo, ci facciamo curare, tutto, andiamo da qualche psicoterapeuta che vogliamo che ci aiuti a risolvere tutti i nostri problemi. Che fanno le celebrity? Che fanno? Non capisco. Allora, Iron Man, che fanno le celebrity Iron? Vanno tu l'hai fatto? Capinere, tu l'hai fatto? No, tu pure sei andato, no. Tu pure sei andato allo psicoterapeuta, Iron, perché sei, no, uno, sei uno così del, capito, del popolo, sei uno di noi. Però sì, non ci dimentichiamo di quando Alexa se l'è fatta con Aquaman. Infatti, infatti. No. Alexa, vabbè, non Alexa, mentire. Dai. E comunque le celebrity, le celebrity, ma diciamo, voglio fare proprio un appunto ai cantautori, alle cantanti e cantanti, ecco, che fanno se vengono lasciati? Scrivono una canzone. Eh sì, scrivono una canzone. È il caso che stiamo ascoltando. Diciamo, facendo un po' di ricerca, alla fine mi si è ecco, uno poi pensa alle ultime diciamo notizie pervenute dai giornali, ma in realtà è dai tempi dei tempi che si scrivono, che non se le mandano a dire. È che non se le mandano a dire. Infatti possiamo citare ad esempio Adriano Celentano con Sotto le lenzuola. Sì, sì. Poi per passare al caro Fabrizio De André con Verranno a chiederti del nostro amore. Oppure potremmo anche citare, vediamo, qualcun altro. Ah, un Justin Timberlake con Cry Me a River. Ah, questa lì c'è proprio un mondo. Un mondo, yeah. Ma poi ne parleremo ancora. E vai, poi vai. Oppure possiamo parlare anche della grande Amy Winehouse con You Know I'm No Good, che anche lei soffrì tantissimo, poverina. E oppure possiamo parlare, questa è bellissima, Better Than Revenge di Taylor Swift, che tra l'altro dopo uscirà di nuovo. Oppure Hold Up di Beyoncé. E fino ad arrivare alla nostra Shakira, che diciamo qualche, appunto, un po' di settimane fa ormai ha annunciato questa separazione dal marito, da Piqué. Sì, era nell'aria, cioè, anche se forse io non lo sapevo, vabbè, ma poi quello che era nell'aria, era nell'aria che si sarebbe lasciati, no, così, così, cioè, io l'avevo detto, fra poco Shakira e Piqué si lasciano. Sì, un po' l'avevo visto lui, erano tanto una giocava bella un po' coppia. Male, sì, sì, e si sentiva anche nell'aria del forte, ecco. Forse Giorgino sì, l'aveva percepito anche nel suo meteo. Un che po' il profumo c'era di mare, che sempre quell'aria, quell'aria così. E, che niente, bella quindi rubrica. Ti piace? Mamma mia. Mi raccomando, non mancare il gancio. No, ma che poi la domanda che io mi sono posta è: ma come ha fatto a scrivere questa canzone dopo essersi lasciata? Cioè, per me è passato un lasso di tempo troppo breve. Cioè, grande a Shakira, ma ecco, quella di cui invece volevo parlare oggi, perché è ancora più fresca la cosa, è la nostra amica Miley Cyrus. Però il gancio l'hai perso, eh? Ci devi dire almeno telegraficamente, perché parliamo di Shakira, rispetto alla pubblicità, che cosa ha fatto Shakira? La pubblicità altro negativa, pubblicità. Certo, bravo, hai ragione, perché ci colleghiamo sempre a quello che è il tema della puntata, la pubblicità. E Shakira, stretta, vabbè, ha denigrato la, ad esempio, vabbè, la Renault con la, dicendo appunto che lei, ecco la terza cosa, non erano le corna, era la Twingo. Cavoli, no, broccolo, capre e Twingo. Comunque sì, la Twingo, che poi la Twingo ha risposto pure, non so se sapete. Sia la Twingo che la Casio hanno sì risposto. Anche la Casio, dicendo: ma come, Shakira, ti piaceva in Casio un po' di tempo fa, mo i Rolex. Vabbè, ma scusa, vabbè, ma vogliamo dire, ma brevemente, perché nel testo che abbiamo appena sentito di Shakira, l'abbiamo sentito prima come sì, sottofondo, ecco, sì, appunto, perché no, perché io me lo sono letto oggi, per esempio, sto testo. Non avevo capito bene questa cosa, cioè lei dice: mi hai sostituito. Sì. Come dice, cioè, ti sei preso una Twingo al posto della Ferrari, sì, hai preso un Casio al posto del Rolex. Al posto del Rolex, ecco, quindi. Vabbè, che poi Casio tutta la vita, voglio dire, però, voglio dire, cioè, se esiste una Twingo è perché a qualcuno poi forse piace pure sta Twingo, non lo so. Ma pure voglio dire, cioè, io non voglio la macchina, voglio la capra, cioè, lo ridico e lo rivendico con orgoglio. Ah, e il Casio ma è bellissimo, va bene così. Vabbè, diciamo che sia la Renault che la Casio sono rimaste un po' dai. Però anche tanta pubblicità, appunto, anche tanta pubblicità, quindi conforma. Che come si dice, purché se ne parli, o no, maestro, purché se ne parli. Ricordiamo che è anche docente, chi viva. Sì. Però sì, assolutamente. Comunque la pubblicità è tutto, anche in senso poi negativo, cioè è tutto uno spunto per ritornare sul pezzo. Comunque, parlando quindi dell'ultima arrivata in casa corne, e c'è Miley Cyrus. Corna. E c'è Miley Cyrus che diciamo che anche lei ha fatto uscire questa canzone molto bella, Flowers, già ne stanno parlando tantissimi e tante in tutti i luoghi, in tutti i laghi, e però quello su cui mi volevo soffermare appunto non tanto, ecco, diciamo la trama è sempre la stessa, anche lei è stata, pare, tradita, se non erro, virgin da Taylor Swift. Giusto. Non sono preparata. Sì, allora l'ex marito di Miley Cyrus mi sembra che, ecco, se la stia facendo con Taylor Swift, che a sua volta, come accennato prima, aveva fatto anche lei a 18 anni il suo pezzo, andando con Revenge Song. Revenge Song, Better. Nome del marito di Miley Cyrus? Allora, nome Gianpaolo. Del marito. No, perché magari lo conosco così, è un rumor che. Allora, nome del marito adesso non mi sono. No, va bene, però siete sicure di non poter chiarire questa cosa poi. Ma se non ne parliamo adesso, mentre ma la musica parliamo? Scorre, adesso è finita appena una revenge song, ne mettiamo un'altra perché comunque la. No, sempre di sottofondo. Nel frattempo volete un tè caldo? Comunque, no, io volevo dire e concludere anche, perché poi ci sarà, cioè ci sarebbe proprio tutte e due ore da parlare. Potremmo raggiungere cose, delle vette ma totali. Io vorrei ricollegarmi un po' alla Gabri Grubri. Vorrei accennare. Scusate, la canzone è troppo alta. Non riesco a parlare. Chiedo scusa. Lo vedevi dal fatto che stavo ballando. No, prego. Praticamente i fan di Miley Cyrus appunto si sono chiesti, ma la nuova canzone, anzi non tanto i fan perché i fan comunque piace, Cyrus. E si sono chiesti se questa canzone è un plagio, e perché questa canzone praticamente è molto somigliante con la canzone a quella di Bruno Mars, che è intitolata When I Was Your Man. Sì. E in effetti è molto somigliante. Sì, eccola. E però questo poi i fan hanno detto sì, è vero, però perché c'è questa somiglianza? Non è un caso, non è, insomma, un caso, non è stato non è un proprio caso, un plagio, perché appunto Miley Cyrus per proprio dire sì, è proprio per te questa canzone, per te, tu sei il mio ex, sei un nostro, io ho proprio, cioè, per farti capire, ho scritto questa canzone con questa musica. Uguale alla tua. No, non è il marito, non è Bruno Mars. Cioè, è questo. No, scusa. Seguito, cioè, uguale. Seguire, scusa. No, raga, non ci confondiamo. L'ex marito di Miley Cyrus, che ha fatto, ha dedicato all'epoca, quando stavano insieme, i primi anni, quest'amore folle, ha dedicato questo pezzo di Bruno Mars alla moglie, a Miley Cyrus. E quindi Miley Cyrus poi che ha fatto? Si sono lasciati, vabbè, le corna, bla bla bla. E quindi ha detto: io adesso faccio proprio una canzone con le stesse note, gli stessi accordi di quella che mi hai dedicato tu. Ecco. E poi sottile, diciamo, sottile, acuta, proprio una vendetta. Sì, infatti. Tremenda. E vorrei. Devo dire che Shakira gli ha dato proprio una pista rispetto a questo. Però vabbè, leggermente più esplicita. Sì, diciamo allora, Shakira era più avvelenata secondo me, invece Miley Cyrus è rimasta un po' più sul suo, diciamo, ha lavorato un po' più su se stessa con questo testo, e quindi anche una sorta di emotività, una sorta di ferita, ma lei dice anche che finalmente posso uscire da questa dipendenza emotiva, perché poi alcune volte questi amori, gli amori sbagliati, amori malati, diventano vere e proprie dipendenze emotive. E quindi lei, voglio citare appunto dei passi, dice: posso amarmi meglio, io posso amarmi meglio, baby. Non volevo lasciarti, non volevo combattere, ho iniziato a piangere, ma poi mi sono ricordata che posso comprarmi dei fiori, scrivere il mio nome sulla sabbia, parlare con me stessa per ore, dire cose che non capiresti, posso portarmi a ballare, posso tenermi per mano da sola. Sì, posso amarmi meglio di quanto tu possa fare. E quindi, ecco, è anche. Ma bomba fa! E quindi. Io sono per. Grazie a te. Io sono per Miley Cyrus, quindi mi piace più questa sorta di. di rivendicazione, ecco. Diciamo che okay, sì, Shakira ha fatto un po' rosicona. Shakira si sì, ha rosicato, non lo so, cioè, non so. Io sono più verso Miley. C'è qualcuno che non vede l'ora che questa rubrica finisca, è alla mia destra. No, vabbè, ma perché con la posta del cuore posso dire questo, che con la posta del cuore è anche un attimo facile scendere, ma io ce l'avevo fatti da aggiungere, scusate, scivolare nel cliché. No, ma poi svilupperemo dibattiti anche semiseri su questo, perché si scivola nel cliché della donna abbandonata, cioè anche un po' sedotta, abbandonata, tradita, che poi va dallo psicologo, che si ammazza, anche va... Comunque, cioè, ecco, questo, volevo dire questo. Volevo proprio dire questo per, diciamo, no, dare un'altra anche nota di colore un po' diversa alla posta del cuore che stiamo trattando. Ho il nome del marito. Ho il nome del marito. Liam Hemsworth. Sì, infatti io su questo, volevo aggiungere una cosa. Se volete vedere gli effetti della relazione finita, ho visto un video in cui i due sul red carpet stanno uno di fronte all'altro. Lei, diciamo, che fa la solita provocatrice, come è nel suo personaggio, e lui le dice: puoi comportarti bene per Bravissima. Una volta. E lei lo scansa e inizia Bravissima. A farsi le foto da sole. E da lì, diciamo, che possiamo passare oltre. Anche io ho visto questi video, sia suoi... Prego, prego. Sia di, anche di Shakira. Sono coppie che venivano, cioè le donne venivano, ho visto scene in cui appunto loro esprimevano il loro essere, no? Questa euforia, questa contentezza in alcuni ricevimenti, ma non ricordo, una era una partita mi sembra, e di qualcosa, non so di cosa, vabbè comunque, e c'erano questi meriti che li accoppavano un po', e io ho visto facce molto tristi, no? Che pure Shakira, no? Si rimetteva un po', si dava un po'... di tono così, invece adesso sul red carpet è successa questa cosa, e questa è la comunicazione non verbale dell'amore o del non amore, e che ci fa capire tante cose. Sì, grande Miley. Cari ascoltatori, benvenuti alla posta del cuore infranto. Ho creato un mostro. Due ore così started to cry but then remembered I can buy myself flowers. Del Forte Prenestino, infusioni, diffusioni e defusioni. Questa gente ce la avenge, don't worry, be happy. Radio Forte 100 Celle Avengers, sempre in diretta nell'ultima mezz'ora di una puntata che come al solito si è sgretolata, era partita un argomento e poi è andata in caciara come nei migliori fantasy, nei peggiori di Caracas e niente, parlavamo della pubblicità ma manco, no? Manco me lo ricordavo più, perché era sì, oggi pubblicità. Comunque okay. Trovare Casio, il link Casio. Con la pubblicità link forzatino della rubrica del cuore, comunque ne ho insediata nel palinsesto di 100 Celle Avengers, che poi ci porta a invece un altro grande, diciamo, ci traghetta, colonna sì, portante diciamo, della, verso un'altra della nostra trasmissione, la rubrica che normalmente tratta faccende di plagio, diritti d'autore e quant'altro. La giornalista Gabri Grubi è pronta, si è settata la cuffia, pronti, e si lancia sì. la sigla di Cegni di Balacà, vai regia. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Ma non lo senti che è uguale ai cigni dei Balagà? Bentornati a una nuova puntata di Cigni di Balagà, la rubrica che ci parla di plagi musicali. Sviscera questa tematica, ma non oggi, ecco. Ma non è questo, ma non è questo il giorno. Andremo tutti a morire, ma non è questo il giorno. No, beh, a parte quella citazione, insomma, il passaggio che... Il padrino. Di? Bravissimo. Il padrino. No. No, sì, grazie Viola comunque intanto per aver lanciato in ogni caso un po' la tematica del plagio riferita alle pubblicità. Le darò un anello che non può rifiutare. Esatto. È partito il padrino. Hai vinto. Allora, sondaggio, grazie, su bravi. Telegram, se volete che la puntata vada tutta così fino alla fine, ditecelo. Vabbè, comunque io da qualche parte nella scaletta l'ho letto, diremo un sacco di cazzate. Ecco, quindi sì, c'era proprio allora, scritto. Cazzeggio legalizzato. La puntata un po' cazzeggio, pubblicità e cazzeggio. Ah, c'era scritto allora. E sì, quindi? Sì, sì. Se e c'era quindi... scritto l'hai scritto. E quindi che stavamo a dire? Stavamo a parlare della pubblicità. Oh. Ecco, però a proposito di spunti, o meglio, punto di vista legale, un po' giuridico, ecco, quello che un po' più mi compete, come sempre, e, il lavoro sporco che lo fate fare a me, e guardiamo un po', ecco, cosa dice la legge sul diritto d'autore di questa pubblicità. Intanto che cosa dice? Dice che come requisito che deve avere il messaggio pubblicitario, che poi è la colonna portante appunto della campagna pubblicitaria, e affinché, ecco, il requisito affinché possa dirsi protetto dal diritto d'autore qual è? L'originalità e la creatività, due requisiti in particolare, quindi, e in altre parole deve essere capace di veicolare un messaggio facilmente riconoscibile e immediatamente comprensibile da parte del pubblico e quindi capace di catturare l'attenzione del consumatore. Ce lo stiamo ricordando, insomma, dall'inizio l'abbiamo detto un po', che in sostanza ne vedevamo un po' il lato oscuro, perché veicola messaggi per farci comprare fondamentalmente, quindi alla base un po' di questo sistema capitalistico e Brom appunto. Brom. Grazie Guido, ci stava bene. Quindi questo diciamo, il fatto che la pubblicità come opera venga coperta poi anche dal diritto d'autore, ce l'hanno detto nel tempo le corti, i tribunali italiani e del mondo. È un'opera complessa, la pubblicità, dal punto di vista del diritto d'autore, assimilabile un po' ai film, perché i diritti che vengono in campo sono molteplici. Proprio come nei film, abbiamo i diritti del regista, quelli del produttore, dello sceneggiatore, e per quanto riguarda la musica avremo i diritti del compositore musicale, che non necessariamente sarà anche l'autore del testo, e quindi potremmo anche avere i diritti del paroliere cosiddetto, che è appunto l'autore del testo. Che scadono nel... Ah no, questo devi sentire la puntata precedente. Per la durata dei diritti d'autore ne abbiamo parlato a gennaio, inizio gennaio. E insomma, tanti diritti, quindi quanti sono i singoli prodotti che messi insieme poi vanno a comporre il prodotto finale, appunto lo spot. E ne abbiamo di esempi in questo senso, i più celebri sono appunto quelli meglio riusciti, ce li portiamo ancora nella memoria, proprio perché evidentemente sono riusciti a creare un mix tra musica e immagini vincente, insomma un mix altamente efficace e suggestivo. E questa suggestione emotiva spesso passa appunto per un motivetto, un jingle, un qualcosa che ti resta in testa come un verso. Un earworm, ve lo ricordate l'earworm? Sì. Ecco, ne abbiamo parlato qualche decade fa. E per fare subito un esempio in questo senso, beccatevi questa pubblicità datata, non so, comunque tra 80 e 90 sicuramente. E quindi se la regia me la favorisce. Le mangio mille giorno. Vai, con Tabù. Perché sei tutta naturale, niente meglio di te. Cos'è Bomb Machine? You. Hai poche calorie giuste per me. Quando non ti sento tremo svengo, sai perché? Sono rosicata, sono qui per te. L'inquirizia pura, questo è un sogno per me. Che rabbia se mancassi, se non fossi con me. Anche bianco. Ah, ma quante ne abbiamo comprate di panchine da voi. Ma abbiamo anche comprato una preziosissima rubinetteria grazie a quel jingle che non ci siamo levati dalla testa, ma per quanto tempo? Micidiale! Cioè, senti che pezzone, no? Anche! Si chiama Zucchetti, la libertà di fare con l'acqua tutto ciò che ti va. Rom! Rom! E anche la nostra rubinetteria è Zucchetti. Vabbè, comunque è vero. Comunque, quindi bene, dal punto di vista del diritto d'autore, quindi possiamo avere due ipotesi. La prima l'abbiamo appena delineata. E questa appena descritta, cioè pubblicità che nascono già con un'idea formata di base in cui la musica viene creata ad hoc, cioè viene proprio apposta creata per quel prodotto. È il caso di Tabù ed è il caso di Zucchetti che abbiamo appena sentito. E poi abbiamo anche un'altra ipotesi, ossia del pubblicitario che decide di rivolgersi ad una star, decide di usare una musica già famosa, creata e impacchettata, per inserirla come colonna sonora del proprio spot, abbinandola quindi a delle immagini. Dal punto di vista giuridico siamo nel campo delle sincronizzazioni. Anche di questo abbiamo parlato, bambini, qualche puntata fa. Per sincronizzazione si intende appunto l'abbinamento di un'opera musicale, e il relativo fonogramma che la contiene, con una sequenza di immagini in movimento, che sono opere cinematografiche, pubblicità appunto, eccetera. E in questo caso è evidente che l'opera musicale utilizzata è contenuta in un fonogramma, ne consegue quindi che a livello di diritti bisognerà chiedere doppia autorizzazione, sia l'autorizzazione del titolare dei diritti sull'opera musicale, che dovremo anche ottenere l'autorizzazione del titolare dei diritti sul fonogramma. Questa doppia autorizzazione deve essere naturalmente preventiva, cioè chiesta prima di usare queste musiche, evidentemente, ed è negoziabile in questo caso direttamente con gli aventi diritto, autori, editori, produttori. Ora andiamo un po' al focus. Perché dico questo? Perché mi è stato domandato di diciamo indagare un po' sui costi di questa roba, cioè i sordi, ma poi gira che ti rigira. Parliamo sempre di questo, cioè quanti soldi si deve aver sborsato la team, ne prendo una a caso, insomma, per reclamizzare la propria offerta, che è del momento, non ricordo neanche quale, una delle solite, tra l'altro, che si è rivolto niente meno a Mina. Ecco, cioè non proprio una a caso, diciamo. Una a caso. Quindi non solo a Mina, ma anche agli editori di Mina. Insomma, pensate un po' a chi l'ha prodotta. Ecco, quanti soldi ha potuto dare a Mina per far sì che il suo brano, creato sì ad hoc per la pubblicità, ma che poi è diventato un brano anche di successo della cantante, è appunto per reclamizzare questa offerta della team. Una cifra esplosiva. Diciamo che sull'ascolto del brano cedo poi la parola al maestro con la sua rubrica Aspettando Mogol, che più diciamo centrerà il tema. E concludo citando, o meglio ritornando a citare Elio e le storie tese, che ha... Elio e le storie tese, Virgi mi segnala. Scusatemi. Mina per Wind. Sì, evidentemente sì. Mina ha prestato la sua voce sia che per la team, ma anche per una la reminiscenza. Wind. Ho un album a casa, non so trovato dove, di Mina per Wind. Quindi incredibile. Va su tutto. Vabbè, siamo sulle marchette. Comunque dicevo che torniamo anche a citare Elio e le storie tese, che come abbiamo sentito all'inizio della puntata, hanno prestato la voce per Conto Arancio. Dico bene, sì. Maestro? Sì, esatto. Sì, prego, prego. Sì, sì, sì, esatto. E quindi su questo chiudo, ma sempre per lanciare un gancio a Manu, la nostra abbonata in prima fila, perché quei mattacchioni di Elio e le Company sono stati appunto verosimilmente ingaggiati da Conto Arancio proprio per creare una musichetta fatta apposta per lo spot in questione. Ma non è escluso che poi questo spot verrà utilizzato, questo brano verrà utilizzato anche in altre maniere, quindi ce lo potremo ritrovare in un loro prossimo CD o in un vinile, lo canteranno nel loro prossimo live quando si riuniranno. Insomma, lasciamo aperta questa domanda, fiduciosi appunto del fatto che Manu non si farà certo scappare l'occasione di fornire una risposta a questo nostro interrogativo esistenziale. Grazie Manu. Manu, al termine avevamo anche dei cigni di Balaca, avevamo anche un brano, maestro, penso, vero, che tu lo stavi proprio caricando, giusto? Era proprio quello che stavo era facendo, quello, però io neanche me lo ricordo proprio bene più. So sicuramente che devo ringraziare nuovamente Dente Marcio DJ. Non è per questo, no, che mi stai facendo? Niente, era sempre un sottofondo per il tuo lancio. Ah, vai. Ma sei arrivato 10 minuti dopo. Questa okay. È Vodafone che tu non hai citato, sempre opera sì. Di Elio e le storie tese, per dare anche un colpo a mano al cuore. Questo è anche figo come pezzo, sembra Spalman, però è sempre... Marchettone. Un marchettone. Un gran marchettone. Prego, prego, scusi. stavamo per lanciare appunto. No, hai chiuso benissimo. Mi ero dimenticata della Vodafone, ma comunque tutte le compagnie telefoniche. Me l'ho scordato pure io, figurati. Proprio volevo rimuovere. Abbiamo citate cosa. Tutte. Sì, a questo punto sì. Allora, ma, dicevo che Cigni. Stavo lanciando il brano di Fra Quintale, che mi ha suggerito Dente Marcio DJ, anche questo lo ringraziamo, si chiama Ah sì. Vai col brano. Un giorno ero a casa che stavo con il culo sopra il divano, mezza canna spenta in una mano, non ricordo cosa pensavo, mi son detto giuro ora la chiamo, sta già con un altro che è strano, lei perfetta, lui uno sfigato, ingessato tipo Ferragamo. Passa da me che fumiamo un po', oh. Passa da me che parliamo un po' e beviamo un po' e poi non lo so, puoi anche fermarti che cena se ti va. Ho casa libera, stasera ci mettiamo su un film e poi passiamo la serata così. Ah, sì, ah, sì, ah. Non lo guardiamo nemmeno. Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Tutta la notte fai. Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Vuoi stare solo con me? Sì, ah, sì, ah, sì, ah. Dovremmo scendere a comprare le sigarette. Sempre in diretta su Radio Forte 100 Celle Avengers, è il momento in fretta e furia di andare a analizzare ciò che ha già diciamo abbastanza sviscerato la giornalista faziosa Gabri Grubi rispetto alla sponsorizzazione non da poco fatta da Mina per Team, e quindi questo è il pezzo che ci accompagna, che già ci fa pensare all'Abruzzo che deve ricostruire o invece no. Allora, questa è soltanto diciamo una sottolineatura di come veramente, anche nonostante non sia cantautore, cantautrice, non lo è Mina, non l'è mai stata, però è proprio un pezzo ritagliato su di lei, proprio una prestazione da un milione di euro, ci verrebbe da dire. Per non parlare poi del fastidio che ha a noi di Aspettando Mogol, che normalmente abbiamo anche una sigla ma non ve l'ho fatta sentire, ma noi ci occupiamo comunque dei testi delle canzoni. Abbiamo diciamo interesse a sottolineare i modernismi che stanno nei testi, no? Per esempio navigare in queste maree, tutte cose che appunto la nostra Mina è stata costretta a dire in questo pezzo, oltre a queste team. Niente, questo ci fa male, quindi in chiusura metto la sigla di Aspettando Mogol, sempre per dire che le parole sono importanti. Sembro tutto anche a, ho speso due campa su una sca. Come parla? Ma che bella canzone. Le parole sono importanti. Potranno mai le mie parole. Parole, parole, di parole. Parole, parole, parole. Ma si è girato al contrario, giro con il pantaloni. Come parla? Sole, cuore, amore. Parole, parole, parole. Una parola ancora. Era proprio perché c'è stava Mina, che mi scuserà la Virgi. Ma Mina c'è anche adesso, quindi. Mina c'è anche adesso, c'è sempre Mina, e quindi passiamo subito a quella rubrica che ci fa pensare perché parlavamo degli spot, perché siamo dei vecchiacci. Esatto, e adesso andiamo a parlare del vecchiume nelle pubblicità con All'Epoca. Sigla! È una nuova diavoleria moderna. All'epoca Roma non c'erano motorini con questi scalmanati, ma c'erano i filobus. A me piace molto questo programma di Paolo Limiti. All'epoca. Brum. Ed eccoci qui in chiusura quasi di trasmissione a parlare di da dove viene tutto questo fervore per le pubblicità, perché noi nella nostra televisione italiana abbiamo degli spot che sono assolutamente longevi e ho fatto una personalissima classifica di cui soltanto il primo posto diciamo ha un ruolo effettivo reale, ma visto che abbiamo poco tempo inizierei subito a parlare del terzo posto di questa classifica. Diciamo che iniziamo con uno slogan corredato da un gesto e queste due cose ci accompagnano da decenni. Lo slogan è mangiare bene per sentirsi in forma, mentre il gesto è quello che io immagino una vera e propria tortura ai danni del personaggio che sponsorizza il prodotto, ovvero un salto a piedi uniti di una staccionata completa di radioso sorriso. Il prodotto è Olio Cuore, con cui però nella vita non ho ancora avuto il piacere di avere a che fare e potremmo mandare lo spot. Oggi a casa mia per la prova di cuore, aspetto la famiglia Blasi. È pronta a tavola. Pasta e fagioli, magnifica idea. A me piace molto. E anche il mio piatto forte. E tu quanti anni hai? Ilari ha 3 anni. Ilari, che bel nome, allegro. E voi a tavola vi mantenete in forma? Vi aspetto per la prova di cuore. Olio Cuore, mangiar bene per sentirsi in forma. Piccola curiosità su questo spot, è uno spot del 1984 e come avete potuto sentire troviamo con tanto di citazione di nome e cognome la ormai ex fiamma del pupone Ilari Blasi, che a soli 3 anni si trova insieme a Mariangela Melato e a un uomo che ha preso lezioni di dizione direttamente da Totti, a recitare in uno spot contro il colesterolo. Ma vinto. Pasta e fagioli, era un altro. Grevissimo. Ma non salta lui la staccionata? No, nessuno saltava ancora la staccionata. Però vi vorrei far notare che troviamo anche la pasta e fagioli che reclama Guido. Esatto, e quindi è tutto collegato. Tutto torna. Andiamo avanti. Al secondo posto, invece di avere lo spot vero e proprio, abbiamo un'idea longeva, in quanto lo spot si rinnova, ma resta sempre identico dagli anni Ottanta. Lo spot è quello della Cedrata Tassoni, sponsorizzata appunto niente proprio di meno che da Mina in persona, diciamo in tutto l'arco degli anni 70. Infatti non sono pochi a credere che la voce che canta lo spot sia proprio la sua in questo, diciamo, nella canzone che c'è nello spot in questo momento, ma in realtà la musica è presa da uno spot degli anni 50 dal Carosello di Bill il Pistolero e non fu mai ripresa fino agli anni 80, quando troviamo la voce delle due coriste di Mina. E le pubblicità cambiano, ma non cambiano davvero. Questo è un mix dall'82 al 2016 in ordine cronologico. Prego, maestro. Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire. Wow. Inventare. Ma trova un minuto per me. Per voi e per gli amici, Cedrata Tassoni. La vostra cedrata. Per voi e per gli amici, Tassoni. E per i nemici? Non sapevo. In ogni momento. Che poi diciamo che io la darei ai miei nemici, ma vabbè, questo è un punto di vista personale. Buona. Ma no, è buonissima. È buona. È troppo buona. È l'olio cuore, che era l'olio del motore, tipo, che era una cosa. Sa come stavi in forma con quello. L'ho visto infatti recentemente. Lui non c'è più comunque. C'è più. Nino Castelnuovo. No. Mi pare di no. Hanno pure detto quello di Erco. Ma andiamo alla prima posizione che tutti stiamo aspettando. Allora, al primo posto abbiamo quello che è ufficialmente lo spot più longevo della TV italiana. Io direi, innanzitutto mandiamolo, prego maestro. Oh. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacola il traffico. Devo dipingere una parete grande, ci vuole il pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello, Cinghiale. Cinghiale, la grande marca. Un po' di curiosità su questo spot. Innanzitutto Ignazio Colnaghi, che era diciamo il creatore di questo spot, è già noto al pubblico, per sempre nella pubblicità, per aver prestato la voce al Pulcino Calimero. Ava! Eccolo qui, lo abbiamo, ecco un contributo in diretta. Dal 1982, con qualche breve pausa, questo spot continua ad andare in onda in occasione dell'estate, che è un periodo ritenuto adatto per i lavoretti casalinghi. Per spennellare. Esatto. La pubblicità venne girata, e adesso arrivano le curiosità più succose, nella milanese Piazza Castello. Appunto ci furono tutto il traffico e tutte le persone che c'erano lì intorno erano vere. Quello che non funzionava nella realtà fu che l'attore Enzo De Toma non sapeva andare in bicicletta. E come potete ricordare, c'è una persona in bicicletta che con un gigantesco pennello sulla schiena. E a rendere più precario appunto l'equilibrio di questa persona ci fu questo gigantesco pennello che venne retto da una persona e sorretto da una persona che era dietro di lui. Ma nella realtà, oltretutto, Enzo De Toma non sapeva nemmeno pedalare. Quindi all'inizio venne aiutato anche lo stesso attore a rimanere, diciamo, in linea con la bicicletta. Ma alla fine venne scelto di aggiungere due ruote alla bicicletta che noi ritroviamo nello spot. Quindi adesso, sicuramente, se voi rivedrete questo spot, non rivedrete mai più i cinghiali con gli stessi occhi. Guardate bene e vedrete appunto le altre due rotelle. Mentiroso. È mentiroso lo spot. E nella mia personalissima classifica, andando avanti e avendo, diciamo, chiuso appunto con lo spot più longevo, c'è però uno spot che non è uno spot, ma che in realtà è uno spot, perché sono sicura che le persone che hanno prodotto il prodotto pubblicizzato saranno ben felici e saranno state ben felici di averlo visto. Lo spot è quello di Gigi Proietti nel film Febbre da cavallo, in cui interpreta il Mandrake, che è un attore sempre in cerca di soldi per poi giocarseli a cavalli. E lo spot appunto è quello del VAT 69. Scusate. Prego, la patente, per favore. No, la patente non ce l'ho. Ah, è un grosso rischio. Sì, però io ho sempre con me una bottiglia di whisky VAT 69. E va bene. Anche voi non prendete fischi per fiaschi. Solo questo è il fischi maschio senza raschio. No! È un whisky fischio senza maschio. No! È un teschio maschio senza fischio. No! Un caschio moschio senza fischio. No! Col fischio. No! Col caschio? Nemmeno! Va bene. Stop! No, io vorrei sapere chi ha scritto ste battute. Stai ascoltando Radio Forte e questo è Centocelle Avengers. Questa trasmissione è un patchwork di musica passata, presente e futura, tutta orbitante attorno ai progetti del Forte. Dalla scuola di musica performance live, passando per un po' di sana follia che non guasta, mai. Centocelle Avengers, la musica si difende. Radio Forte, 100 Celle Avengers, allo scadere in zona Cesarini, io penso che sia, non lo so se la redazione è d'accordo, che sia il momento di dare, nonostante siamo gli sgoccioli, la possibilità alla maestra Viola di diffondere cultura, di darci una spiegazione, se non altro a questo. Ma questo è il giardino dell'angelo coi baffi, dava da mangiare agli uccelli di legno, tutti che ridevano, dolce. Ma lui era ottimista, che dolce. E gli uccelli presero il volo. Unieuro ha deciso di cambiare la televisione agli italiani. Televisori digitali dalle immagini stupende. Schermi sottili che si appendono come quadri. Pronti per il futuro. E con la promozione fuori tutto sui televisori hai uno sconto fino a 600 euro. Gianni, l'ottimismo è il profumo della vita. L'ottimismo vola. Allora, tutto questo riguarda la musica e la poesia, quindi sigla. Lasciatemi leggere. E sulla sigla puoi già anticiparci, Viola, che parleremo di chi? Sì, parleremo di Tonino Guerra, il grande, il grandissimo poeta, scrittore, sceneggiatore. E che testimonial di Unieuro. È testimonial di Unieuro, quindi fa parte della puntata di oggi, anche se, ahimè, cioè, devo correre. Oh. Cosa. Tranquilla. Vado. Allora, Tonino Guerra, parliamo un po' di lui. Vissuto per 30 anni a Roma, era figlio di genitori contadini. Infatti alla madre analfabeta insegnerà a scrivere e a leggere. Durante la Seconda Guerra Mondiale venne deportato in Germania e rinchiuso in campo di internamento, dove però inizia a comporre i suoi primi versi in lingua romagnola. E nell'immediato dopoguerra pubblica la sua prima raccolta di poesie in dialetto, che si intitola Scarabocc, non so se ho detto bene, questa ne seguono altre. E diciamo che dai primi anni 50 invece si è dedicato alla sceneggiatura, ha scritto per i più grandi registi dell'epoca, compresi Vittorio Bellissima. De Sica, Michelangelo Antonioni, Federico Fellini, Fratelli Taviani, e Mario Monicelli e il grande Fellini, e vincitore poi del premio Oscar con Amarcord. La citazione l'ottimismo, così. Il profumo della vita. Non ce n'hai un'altra frase sua, un'altra frase sua in chiusura sua. Per l'ottimismo. No, è una poesia, la farfalla. Contento, proprio contento sono stato molte volte nella vita, ma più di tutte quando mi hanno liberato in Germania, che mi sono messa a guardare una farfalla senza la voglia di mangiarla. È un po' triste, lo so, però questo è anche per ricordarci della giornata. Bravissima. Della memoria, lo so. Bravissima. E lui è stato vero. T'avevo detto che anche se hai sacrificato comunque non mi lasciate persa. Purtroppo Tonino Guerra aveva senso solo oggi con questa cosa della pubblicità, lo so. Che pare che ce l'abbia, diciamo, l'ultima cosa che ha fatto, ecco, sì. Ci ha lasciato così. Lasciato e quindi noi invece vi lasciamo dicendovi che ci vediamo fra 2 settimane, rubandoci sempre un minutino così per dirlo. Questa puntata sarà in podcast. Madonna, che serietà! No, infatti, per la musica che ci. Scusate, dicevo che questa trovata la puntate in podcast. Questa puntata la trovate in podcast sul sito Forte Prenestino, alla sezione radio. E qualcuno vuole aggiungere qualcosa? Speriamo che Guido. Avete tratto delle considerazioni sulla pubblicità. Tiriamo le somme dicendo che sì, è stata bene, buona, cattiva questa pubblicità, non lo so. E che vi sia venuta voglia di broccoli. Mi sia venuta voglia di broccoli. E chissà se troviamo anche la sigla. Se si votasse oggi al referendum quello che c'è stato nel 95, saremmo tutti anti-spot o pro-spot, chissà. Comunque anche l'ultimo film di Sean Connery è stato una merda, quindi Tonino Guerra è perdonato per questa cosa. E su questo grandissimo, grandi contenuti, Franci, grazie a tutti. E sigla! Sigla, ciao. Buonasera! Ciao! Ciao a tutti!